Thank you. Thank you. Thank you. verde luna, c'è la luna rossa, c'è la luna marinara. Quante lune, ma nessuno certe lune come me. C'è la luna bianca, c'è la luna nuova, non c'è notte senza luna. Quante lune, ma nessuno certe lune come me. Si è bruciata la casa, non trovo chi mi sposa, ma ha rubato ogni cosa di valore. Sono pieno di tasse, oppure un po' di tosse, le mie lune sono rosse, gialle e blu. C'è la luna triste, c'è la luna cuba, c'è per me Madonna luna. Quante lune, non parlatemi di lune per favore. Tosse le mie lune, sono rosse, gialle e blu. C'è la luna triste, c'è la luna cuba, c'è per fin Madonna luna. Quante lune, non parlatemi di luna per favor. Ma tu, pallida luna, perché ridi di me? Quante lune, non parlatemi di lune per favor. Quante lune, non parlatemi di luna per favor.